giornale radio del Friuli Venezia Giulia. A Udine, sindaci a confronto con l'assessore alla protezione civile Riccardi, il punto sui primi 50 milioni stanziati per l'emergenza maltempo. Sabato da Bollino Nero sulle autostrade, qualche coda a Ugovizia, all'Isert verso le località di mare, la Croazia. Chiusa per mancanza di iscritti, la scuola per falegnami a San Giovanni al Natisone, resistono, Brugnaretto il mezzo. 7 misure cautelari a Pordenone per furti e rapine in negozi della zona, indagini di squadra mobile, carabinieri. Controlli dei carabinieri nella destra tagliamento contro reati predatori e spaccio, patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Aggradisca la musica per Giulio, ieri Daniele Silvestri, oggi Niccolò Fabi per ricordare il ricercatore ucciso in Egitto. 12:31 minuti, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Le conseguenze del maltempo sono al centro dell'incontro in corso a Udine tra l'assessore alla protezione civile Riccardi e i comuni per fare il punto sulle modalità per accedere ai fondi stanziati per l'emergenza. Martedì poi un tavolo Confindustria Regione sulla situazione delle aziende più colpite. Un caso diverso dagli altri. È con queste parole che l'assessore con delega alla protezione civile, Riccardo Riccardi, ha definito gli eventi di maltempo che hanno colpito il Friuli Venezia Giulia nei giorni scorsi. Lo ha detto ai sindaci riuniti a Udine nel Palazzo della Regione per fare il punto della situazione. Un caso diverso che somiglia, per capillarità e distribuzione dei danni, alla pandemia. Nei comuni colpiti nessuno o quasi può dirsi risparmiato. La conta dei danni è solo all'inizio, ma il meccanismo degli aiuti e dei contributi ha già cominciato a muoversi sia a livello regionale che nazionale con la richiesta di stato di emergenza inviata dal governatore. La regione intanto ha già stanziato 50 milioni di euro. Il 4 agosto sarà avviato il procedimento contributivo e a quel punto toccherà ai comuni in 30 giorni raccogliere le istanze di privati e imprese e definire la spesa ammissibile. Poi sarà classificata la tipologia di danno e l'intensità del contributo, ultimo passaggio prima dell'erogazione. Se tutto va bene, i primi soldi arriveranno in 90 giorni. Per i privati sono previsti 5.000 euro come prime misure, cui se ne potranno aggiungere in seguito fino a 150.000 a seconda delle disponibilità che deriveranno dalle disponibilità nazionali. Per le imprese sono 20.000 per le prime misure, mentre sulle ulteriori risorse si parla di 450.000 euro. I moduli saranno gli stessi sia per l'istanza contributiva regionale che per quella nazionale, con la sola eccezione dei veicoli. Udine, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Giornata da Bollino Nero per il traffico sulle autostrade della regione. Tanti si sono messi in viaggio da stanotte diretti verso la Croazia e le località balneari della regione. Code per tutta la mattina si sono già registrate alla barriera di Ugovizia e sulla A4. Al momento ci sono incolonnamenti di alcuni chilometri alla barriera dell'Isert in uscita a Trieste, come anche tra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la A23, sempre in direzione Trieste. Un traffico in largo aumento rispetto agli anni scorsi, ci ha spiegato il direttore d'esercizio di Autostrade Alto Adriatico, Davide Sartelli. Il traffico, come da previsione, è molto intenso, è in aumento addirittura rispetto all'anno scorso dell'8,5%. Oggi prevediamo di avere 190.000 transiti lungo la rete di Autostrade Alto Adriatico, 370.000 transiti durante il weekend. Il traffico sarà intenso fino al tardo pomeriggio e ci saranno code per i caselli del mare, quindi sicuramente al casello di Latisana, quindi per Lignano Bibione, e al casello di Lisert per recarsi in Croazia. In questo caso c'è un percorso alternativo, quello che porta in Croazia prendendo il tratto Villesse-Gorizia, quindi per Gorizia. Sarà un tratto più lungo, ma in queste giornate più breve in termini di tempo. Quando si raggiungerà i 6 km di coda al casello di Lisert, verrà anche reso obbligatorio. Partiranno delle safety car dal casello da Palmanova, dal nodo di Palmanova, e obbligatoriamente i transiti dovranno andare verso Gorizia. Passiamo al meteo. Il cielo è sereno, poco nuvoloso sulla regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 26 gradi, il mare è calmo con temperatura di 26 gradi. A Gorizia e Pordenone 26, a Udine 25 gradi. In Aramontana, Tarvisio 22, Forni di Sopra 21 gradi, Piancavallo 18, Tolmezzo 23, Sappada 20 gradi. In quota sul Monte Lussari 15, sul Monte Zoncolan 16 gradi. Sulla costa, Lignano e Grado 26 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi. Ora le previsioni dell'ARPA: nelle prossime ore cielo in genere variabile con più sole verso la costa e maggiori annuvolamenti sulla zona montana, dove saranno probabili rovesci o temporali che in serata potranno estendersi alla pianura, 20 a regime di brezza. Domani previsione in parte incerta, più probabilmente avremo di notte e di mattina cielo nuvoloso con rovesci e temporali diffusi. Soffierà vento da nord-est in genere moderato, qualche temporale potrà essere più forte con piogge localmente intense, specie su pianura e costa. In giornata variabilità con schiarite e attenuazione delle precipitazioni e del vento, ma nel pomeriggio saranno possibili ulteriori rovesci sulla zona montana. Questa mattina alle 6.30, a 5 km a sud-est di Tarvisio, è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia un lieve terremoto di magnitudo 2.2 a una profondità di 5 km. Il fenomeno è stato preceduto da una scossa di magnitudo 2.3 registrata al confine tra Slovenia e Croazia, con profondità di 10 km, che è avvenuta alle 2 di notte. Al momento non si ha notizia di danni a cose o persone. Voltiamo pagina. A fronte di zero iscrizioni, non è più possibile tenere aperti i corsi di arredo e forniture di interni dell'ISIS di San Giovanni a Natisone. Una chiusura che potrebbe avere pesanti conseguenze sulla capacità competitiva futura delle aziende del legno locali. Le aule del corso professionale quinquennale arredi e forniture di interni dell'ISIS Malignani di San Giovanni alla Tiesone a settembre resteranno chiuse per circa 10 anni. Si è tentato di tenerle aperte nonostante negli ultimi 5 non riuscissero mai a raggiungere il numero minimo di iscritti richiesto per le scuole periferiche. I dirigenti della scuola con comuni e imprese del distretto del mobile e del cluster arredo hanno provato, anche con l'aiuto della regione, a rilanciare il corso ampliandolo in tecnologie per l'arredo e materiali del Made in Italy, ma non è mai decollato, sebbene la scuola superiore fosse l'unica in zona e contasse su un ampio bacino di potenziali studenti. Oliviero Barbieri, preside dell'ISIS Malignani, dunque una decisione inevitabile. Purtroppo sì, abbiamo constatato zero iscritti nel percorso del legno, avevamo solo il biennio dell'istituto tecnico, due classi prime, non siamo riusciti a fare la nuova classe prima, quindi non si poteva tenere aperta la scuola solo con 30 allievi. Abbiamo fatto il possibile, un'intensa campagna di orientamento coinvolgendo gli istituti comprensivi della zona, tutti gli enti locali, le aziende del territorio. Nonostante questo non ci sono stati iscritti per il percorso legno. Purtroppo era già da 7 anni, prima nel professionale, poi nel tecnico, che non hanno dato un numero di iscritti sufficienti per aprire una classe. Eppure qui sono state formate le maestranze che hanno fatto la storia del distretto della sedia e del mobile, e come mai questo crollo? Probabilmente l'immaginario è di una professione non più alla moda, non più moderna. In realtà i nostri tecnici sono altamente specializzati, perché anche l'industria ormai utilizza diverse macchine a controllo numerico altamente tecnologiche. Peraltro nelle aziende sono richiestissimi. Sì, sono molto richiesti, infatti gli ultimi diplomati dell'anno scorso sono stati tutti assunti. Che fine farà questo istituto? L'istituto torna nella disponibilità dell'amministrazione comunale, che vedranno quale destinazione dare. San Giovanni alla Tisone, Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla cronaca. Sono 7 le misure cautelari emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone a carico di 2 italiani e 7 stranieri che lo scorso maggio hanno compiuto furti e rapine in esercizi commerciali della zona. Le misure sono state decise in seguito all'attività investigativa congiunta della squadra mobile della Questura di Pordenone con il comando della Compagnia di Carabinieri locale. In particolare, per un 19enne congolese è stato disposto l'arresto domiciliare con braccialetto elettronico, mentre per un marocchino di 22 anni è stato disposta l'espulsione con accompagnamento immediato alla frontiera aerea di Venezia. E ancora cronaca, attività di controllo del territorio per la prevenzione dei furti e il contrasto allo spaccio ieri sera per i carabinieri del comando provinciale di Pordenone nei territori dei comuni di Sacile, Brugnera, Polcenigo, Budoia, Aviano, San Quirino, Rovere d'Oimpiano, Fontana Fredda e Prata di Pordenone. Durante il servizio sono stati controllati 75 veicoli e identificate 80 persone. Tra le sanzioni per violazioni del codice della strada, due automobilisti denunciati per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche, un 21enne residente a Gaiarine, controllato a Brugnera, a cui è stata ritirata la patente, così come a un 29enne di Budoia, fermato ad Aviano. Controlli antidroga nei parchi e nelle zone di aggregazione dei giovani, due le persone segnalate alla prefettura per uso personale di stupefacenti. Ancora cronaca, nella notte appena trascorsa si sono avverati diversi incidenti in regione. Alle 23:30 i vigili del fuoco del distaccamento di Sacile sono intervenuti in via Granzotto per un incidente sulla sede stradale. L'autista è uscito in modo autonomo dall'abitacolo della macchina in cui viaggiava ed è stato presto assistito dal personale sanitario, sul posto anche i carabinieri. Incidente stradale nella notte a Cordenonsi, via Maestra all'incrocio con via Villa d'Arco. A scontrarsi qui sono state un'auto e una moto. Dopo l'impatto entrambi i mezzi hanno proseguito la loro corsa per altri 30 metri. Il Centauro è stato sbalzato all'indietro di una quindicina di metri, terminando la caduta sulla banchina laterale, riportando varie lesioni. È rimasto sempre cosciente, vigile per tutta la durata dei soccorsi. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico 112, la SORES ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Attivati anche i vigili del fuoco, l'uomo è stato trasportato in volo all'ospedale. E investimento di un pedone a Lignano Sabbiadoro, sempre nella notte, in viale Tagliamento, nelle vicinanze di una discoteca. Anche in questo caso il ferito in condizioni serie è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale di Udine. A Cordenonsi è il fine settimana del 46esimo incontro annuale dei corregionali all'estero delle fasce, dal titolo Storie di ieri, memorie di oggi. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha portato i saluti del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del governo e ringraziato tutti coloro che hanno tenuto vivi i rapporti di amicizia e collegamento con l'Italia per tanti decenni. Oggi pare facile, ha detto Ciriani, ma negli anni 60 e 80 sostenere la memoria del Friuli e di Pordenone tra coloro che erano lontanissimi è stata un'opera fondamentale per non disperdere quel patrimonio. Alla cerimonia inaugurale ieri a Pordenone anche il presidente del Consiglio regionale Mauro Bordin e il consigliere regionale Carlo Bolzonello, con gli amministratori locali e il presidente fasce Gino Gregoris. I regionali sono qui grazie a due progetti sostenuti dalla regione: alla scoperta delle proprie radici, rivolta a giovani, mentre destinazione FVG alle famiglie. Provengono da Argentina, Brasile, Canada, Uruguay e Venezuela. E ora ci spostiamo a Valbruna, dove è in corso da ieri il Festival Green del Friuli Venezia Giulia. Fino al 1° agosto Nano Valbruna ospiterà scienziati, imprenditori e docenti insieme a centinaia di giovani da tutto il mondo per parlare di ambiente e di tutela degli ecosistemi. Un festival dei giovani per i giovani è Nano Valbruno, giunto già alla sua quarta edizione, un festival green tra scienziati, imprenditori, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni internazionali. Quest'anno la manifestazione si arricchisce della delegazione ONU per parlare di cibo e agricoltura sostenibile. Giunto alla sua seconda edizione, il Contest Byte Innovation Award, rivolto ai giovani, per progetti innovativi e sostenibili. 42 i progetti arrivati da tutto il mondo, 10 quelli selezionati, ma non solo, laboratori per bambini, esperienze di turismo sostenibile. Valbruna, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo allo sport. Per la scherma, ieri l'Italia ha vinto la medaglia d'argento nella spada a squadre femminile ai campionati mondiali di Milano. Le azzurre, che schieravano la friulana Mara Navarri a bronzo individuale, hanno subito la rimonta della Polonia nell'ultimo assalto, quello decisivo, che vedeva opposte la Flamingo e la Svatoska Węglarczyk. L'Italia, in vantaggio di 2 stoccate, ha subito un parziale di 9-3, poi risultato decisivo. La schermitrice di Carlino è stata nettamente la più positiva delle italiane. Al termine dell'ultimo all'ultimo assalto aveva passato il testimone con 3 stoccate di vantaggio, ma non è bastato per arrivare alla medaglia d'oro. Sentiamola al microfono di Sabrina Gandolfi di Rai Sport. Io sono comunque contenta, non comunque, sono contenta. Siamo entrate nelle 4, era importante per i fini di Parigi e questo argento sono punti importantissimi e di questo ne sono orgogliosa, di come siamo state squadra oggi. Aggiungo che se non sbaglio, insomma, tu hai fatto uno step in più perché partivi da un bronzo individuale. Ma sicuramente un argento, è vero che la voglia viene rosicchiare sempre di più. Vorrà dire che lavoreremo ancora, partiremo dal risultato di oggi solo per migliorarci. Quindi questo è quello che penso come squadra, e eravamo sulla strada giusta, ma lo siamo lo stesso sulla strada giusta. Forse non era ancora il posto giusto nonostante questo tifo bellissimo ed eravamo proprio in casa con le persone con cui vogliamo più, a cui vogliamo più bene. E adesso il calcio. Per l'Udinese terminano gli allenamenti in terra carinziana. Oggi la squadra lascia il ritiro di Bad Klein-Kirchheim per spostarsi a Lienz, dove alle 15.30 affronterà l'Union Berlino nell'ultimo test di prestigio di questo ritiro. Al termine del match poi i bianconeri rientreranno a Udine. Domani allenamento, poi 2 giorni di riposo. Mercoledì la ripresa della preparazione in vista dell'amichevole di venerdì 4 agosto alle 20.30 allo stadio Friuli Dacia Arena contro l'Arl Ryan, club catariota tra i più importanti dell'Asia, allenato dall'ex Monaco Jardim e in cui milita l'attaccante della nazionale spagnola Rodrigo. Gli spettacoli, un Daniele Silvestri rock e allo stesso tempo riflessivo, ieri sera a Gradisca di Sonzo per il Festival Onde Mediterranee, festival che da anni è dedicato a Giulio Regeni. Un legame che nasce tanti anni fa con il regalo di un CD taroccato e che continua nel tempo con il sostegno alla battaglia di Paola e Claudio Regeni per avere verità per Giulio. Quel legame con Daniele Silvestri si è rinsaldato ancora una volta in occasione del concerto del cantautore romano al Festival Onde Mediterranee, che da diverse edizioni ormai è dedicato al giovane ricercatore ucciso in Egitto, con iniziative per ricordarlo e per tenere alta l'attenzione sul caso. Silvestri, che già più volte si è recato a Fiumicello, ha invitato sul palco del castello di Gradisca i genitori di Giulio con lo striscione giallo, accolti dall'applauso del pubblico. Prima la madre di Giulio, Paola De Fendi, con un ricordo del figlio. Giulio, una delle prime amorose, ha regalato un CD ai taroccato che un 25 gennaio, quando Daniele era venuto a Fiumicello, con la sua generosità e comunicando con nostra figlia, aveva detto dagli Stati Uniti: ma c'è Daniele Silvestri a Fiumicello, ma lui mi ha regalato un CD taroccato, non rose, non fiori. E da qua siamo sempre con lui. Poi il grazie del padre Claudio. Siamo molto, molto contenti, molto onorati di essere qui su questo bellissimo palco con questi bravissimi musicisti. Grazie di tutto il sostegno. Grazie a voi. A Gradisca Silvestri ha portato una delle tappe di Estate X, la sua tournée estiva nei più importanti festival della penisola. Dall'uomo col megafono a Manifesto e a Scrupoli, accompagnato dalla sua sorprendente ed eclettica band, ha ritrovato sia le amate chitarre elettriche, sia i brani più coinvolgenti e i ritmi serrati da grandi spazi. Gradisca di Sonzo, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Dillo pure che sei. Ultimo fine settimana di Onde Mediterranee Festival, che per il secondo anno fa base a Gradisca di Sonzo alle 21.30 in programma nell'Arena del Castello. Niccolò Fabi in Solo Tour Estate, il cantautore in questa performance mette al centro il suono acustico accompagnato da chitarre e pianoforte. Fabi, nei suoi oltre 25 anni di carriera, si è concentrato anche sulla divulgazione di tematiche sociali, sostenendo fra le altre anche la causa di verità e giustizia per Giulio Regeni. In sottofondo state ascoltando una sua esibizione della canzone Offeso di Fiorella Mannoia, che entrambi gli artisti hanno dedicato al ricercatore di Fiumicello assassinato al Cairo. Il concerto di Fabi si allaccia alla giornata finale di domani, come avete sentito, con l'iniziativa Onde per Giulio. Beppe Giulietti, presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana, presenterà infatti i libri La vita ti sia lieve di Alessandra Ballerini, oltre a Giulio fa cose di Paola Defendi e Claudio Regeni, e poi Fifa nera, Fifa blu di Alessandra Ballerini e Lorenzo Terraneva. Seguirà poi la camminata per la giustizia e la serata Facciamo cose per Giulio, tra gli ospiti musicali previsti Vallanzasca. Tornando a questa sera, prima del concerto di Fabi alle 20, è in programma nei giardini dell'Arena del Castello lo spettacolo del teatro Molino Rosenkranz L'uomo che piantava gli alberi, letture di Roberto Pagura con l'accompagnamento musicale di Sebastiano Zorza alla fisarmonica. E ancora una segnalazione che riguarda gli spettacoli. Il concerto di questa sera di Kyla Brox nell'ambito di Blue Notte Gorizia Festival, a causa delle incerte condizioni meteo, si svolgerà al Kulturni Dom di Gorizia in via Italico Brass alle 21. L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Si intitola Custodi, il documentario di Marco Rossitti, regista e docente di cinema all'Università di Udine, che sarà proiettato a Trava di Lauco alla Chiesa di San Leonardo alle 20:30. L'opera, che pone al centro il rapporto tra l'uomo e la natura, presenta storie di sconosciuti ma fondamentali custodi dei loro territori, che spaziano nel nord Italia e anche in Friuli Venezia Giulia, dalla Carnia ai Magredi fino alla laguna di Marano. Abbiamo intervistato Rossitti per chiedergli quali incontri tra i custodi lo abbiano colpito maggiormente. È difficile dirlo perché io sono affezionato ugualmente a tutti i miei custodi, devo dire Beppo sicuramente, perché da lì è partito tutto, è un po' una sorta di nome tutelare, di antenato totemico di tutti questi, ma la coppia Roberto e Xiaolei, lei è una ragazza che viveva a Shanghai e adesso gestisce un agriturismo sulle montagne del Pordenonese, pensate lo shock culturale, antropologico, paesaggistico di passare da Shanghai, no, una delle megalopoli più moderne al mondo, e trovarsi invece vicino alle montagne friulane, vicino alle pozze smeraldine, a tramonti di sopra, per amore, per ricerca di una vita migliore, di una vita a contatto con la natura. Questa esperienza cinematografica le ha insegnato qualcosa, ha cambiato qualcosa nella sua vita? Mi ha insegnato, a parte tutti i valori che ho imparato da queste persone, mi ha insegnato la lentezza, il piacere di fare un film senza costrizioni di tempi, prendendosi il tempo per riflettere, per cercare. È un film che è nato 10 anni fa, il primo Custode, abbiamo cominciato a raccontarlo nel 2012, siamo nel 2023, quindi sono quasi 11 anni. È una sorta di modello di slow movie, non so, di slow cinema, se vogliamo. E domani su queste frequenze andrà in onda Vita nei Campi, la rubrica dedicata al mondo dell'agricoltura e dell'agroalimentare. Sentiamone un'anticipazione. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura la grave situazione creata in un'ampia fascia di territorio dai nubifragi dei giorni scorsi. A seguire, per la rubrica del bio, una serie di consigli e considerazioni su come comportarsi in seguito a grandinate ed eventi meteo estremi. Nello spazio che dedichiamo alla macerazione dei pigiati in cantina, l'azione di un lievito subdolo, il Brettanomyces. Avremo poi per la rubrica dei forestali le raccomandazioni sul comportamento da tenere in caso di un incontro, peraltro raro, con un orso nel bosco. A seguire la diatriba sull'abbinamento in gastronomia di pesce e formaggio con una ricetta di tonno e pecorino. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana, con la rivederci a settembre. Ad agosto la trasmissione non va in onda. Appuntamento domani alle 8:50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è tutto per questa edizione meridiana del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. In regia Bruno Montevecchi e Paolo Cassano. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia. Vi ricordiamo il prossimo appuntamento con il telegiornale alle 14 sul terzo canale TV. E da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.